Buongiorno. Vi ho colto nella mezza pennica, ho sentito che l'applauso è arrivato con qualche istante di ritardo, tutti colti, non ve l'aspettavate. Bene, intanto grazie di essere qui, nonostante il ponte. Oggi parliamo del piano trio nella nostra serie delle guide all'ascolto, imparare ad ascoltare, a cercare di capire come funzionano alcuni aspetti fondamentali del linguaggio del jazz. Sicuramente la formula del trio per pianoforte, contrabbasso e batteria, che nella nostra immagine di copertina è simboleggiata, poi lo vedremo, dal gruppo più importante e rivoluzionario di questa formazione, cioè il trio di Bill Evans con Paul Motion e Scott LaFaro, anche se la foto è poco glamour con quell'annuncio così messo lì al centro, un pezzo di carta appiccicato alla parete del Village Vanguard. Beh, dicevo, si tratta di una delle formazioni più importanti e più caratteristiche della storia del jazz, un tipo di organico che non esiste in altri generi, che per esempio non esiste in musica classica, dove per esempio il trio si può declinare con varie combinazioni di strumenti, ma sempre senza la batteria, che è uno strumento caratteristico del jazz, e con il contrabbasso, che invece nel jazz ha appunto un ruolo, come vedremo, variabile, fondamentale e variabile. Il titolo e le geometrie variabili del piano trio, perché vedremo che il ruolo fra questi tre strumenti nel corso della storia muta continuamente e continua ancora oggi a essere oggetto di ricerca da parte dei musicisti. Ma la cosa interessante è che il piano trio, che oggi è una formazione che diamo per scontato, è anche una delle più affascinanti, di maggior successo. Pensate ad esempio al successo, che so, del trio standard di Keith Jarrett o quello di Brad Mehldau. Il piano trio non è sempre stato così, cioè non è sempre stato con pianoforte, contrabbasso e batteria, ma anzi nasce con un tipo di formazione che sembra somigliare più a una formazione classica, in realtà è molto più vicina alle esigenze di un club e di un'atmosfera raccolta. Inizialmente il piano trio era fatto di pianoforte, ovviamente, chitarra, attenzione, chitarra elettrica per la precisione, e contrabbasso. Quindi senza la batteria, con due strumenti armonici, il pianoforte e la chitarra, e il contrabbasso nel ruolo di accompagnamento. Questo tipo di organico così particolare nasce sostanzialmente intorno al, diciamo così, alla metà, nei primi anni 40, ecco, nel corso della Seconda Guerra Mondiale, e ha come protagonisti una serie di grandi musicisti, in genere il maestro, colui che è considerato l'iniziatore del trio jazz pianistico, ripeto, con la chitarra e il contrabbasso nei primi anni 40, è il grande Nat Cole, detto King, che, come forse saprete, non solo è stato un cantante di immenso successo, soprattutto dalla fine degli anni 40, ma prima ancora era stato un pianista di notevole valore e di grande importanza storica. Oltre a Nat Cole, io citerei anche Clarence Profit, che non dovete sorprendervi se non lo conoscete, un musicista oscuro, dimenticato purtroppo, un grande pianista attivo anche lui tra gli anni 30 e gli anni 40, e che secondo molti è il vero iniziatore della formazione in trio con il piano, con la chitarra e il contrabbasso. E Nat Cole non sarebbe altro che un musicista che poi ha preso questa idea di Profit e l'ha resa più popolare. Comunque, il successo di Cole e in parte anche di Profit nei primi anni 40 ha spinto molti grandi pianisti di quegli anni a cimentarsi con questo tipo di formazione. Anche un grande come Art Tatum, che in realtà stava bene quando suonava da solo, tuttavia nei club per un certo periodo ha lavorato con la chitarra e il contrabbasso. Ora, tutti i nuovi pianisti attivi dalla fine degli anni 40, che volevano, diciamo così, sfondare, che volevano trovare una strada di successo in un suono riconoscibile, consolidato e accettato, fondavano dei tri con chitarra e contrabbasso. Anche due musicisti che oggi associamo al trio classico con contrabbasso e batteria hanno cominciato con il trio con chitarra e contrabbasso. Per esempio, Oscar Peterson, ha diretto due trii che oggi non ascolteremo, ma che vi invito ad approfondire, che sono straordinari, con Herb Ellis alla chitarra, o prima Barney Kessel alla chitarra e poi Herb Ellis, e Ray Brown al contrabbasso. Questo trio con chitarra e contrabbasso di Peterson dei primi anni 50 è una formazione eccezionale. Peterson era talmente ossessionato dalla formazione di Nat Cole, di Nat King Cole, che addirittura nei suoi primi dischi canta anche nello stile di Nat King Cole, dischi che oggi, chissà, forse anche per fortuna, sono dimenticati. Un altro che ha cominciato a lavorare con un trio di enorme successo con chitarra e contrabbasso è stato Ahmad Jamal, che si diceva oggi con qualcuno dei tecnici qui presenti, è stato di recente anche qui all'auditorium e continua a essere un musicista molto importante ed attivo con il trio contrabbasso e batteria. Ma aveva cominciato con lo stile più classico, con chitarra e contrabbasso. Ora, pian piano vorrei farvi sentire qualcuno di questi trii col contrabbasso e la chitarra, perché il tipo di suono è molto particolare. L'organico in apparenza ha un problema, cioè, questo chi è musicista lo sa bene, quando avete due strumenti armonici, cioè che fanno più suoni contemporaneamente, come il pianoforte e come la chitarra, il rischio è di sovrapporsi e di creare dei conflitti. Finché si tratta del contrabbasso, che sta in registro grave, va bene, ma la chitarra, che ha un'estensione un po' più limitata del pianoforte, tende a stare soprattutto sul registro medio, cioè nella parte, diciamo così, centrale della tastiera. Il pianoforte tende anch'esso a stare nella parte centrale della tastiera. Nel caso del trio di Cole c'è un altro problema: la voce maschile sta sempre in quest'area, quindi, stando in quest'area, chitarra, pianoforte, voce sono tutti, come dire, raggruppati nella stessa zona di registro. Per ovviare a questo problema, Cole, che era un musicista di straordinaria intelligenza, oltre che di grande abilità pianistica, pensò di organizzare il trio in una forma molto rigorosa, cioè utilizzò molti arrangiamenti. In questi arrangiamenti, quindi con poca improvvisazione, in questi arrangiamenti, per esempio, la chitarra può andare con il contrabbasso, può suonare delle note singole invece che degli accordi, il pianoforte può tacere quando invece la chitarra farà solo. Insomma, ci sono tanti modi diversi di organizzare la combinazione fra i tre strumenti, a patto che questi modi vengano preparati prima, in modo da creare una specie di intreccio fluido, elegante, che ha un suono da camera. Vi ricordo, non c'è la batteria, quindi tutto è un po' ovattato, tutto un po' raccolto, sulla quale tra l'altro si innesta la voce elegantissima di Nat Cole. Io vi proporrei, nel trio con Oscar Moore e Johnny Miller, Oscar Moore era il chitarrista, Johnny Miller era il bassista, vi proporrei un breve clip video dei primi anni 40 in cui possiamo apprezzare al meglio il trio di Nat Cole. It is better to be on the shelf, be just like a hermit living in a cave. You don't get much loving, but the dough you save makes it better to be by yourself. She say, I'll see you, Gate. Now he works all day and come home at night. Instead of little bitty petting, all she wants to do is fight. So it's better to be by yourself, boy. It's better to be by yourself, oh man. It's better to be by yourself, boy. Chitarra e piano vanno insieme. Taste this stuff. L'ho preso questo dal documentario di Clint Eastwood con Ray Charles. Ray Charles la dice, roba veramente saporita. Real tasty stuff. Come avete sentito, tra l'altro, la chitarra e il pianoforte a volte vanno insieme intenzionalmente, fanno esattamente la stessa cosa, per creare quella che è una dei punti chiave, come scopriremo, del trio, cioè per creare un colore, un timbro, un tipo di sound. Una cosa notevole del trio di Cole, che viene ripresa e ampliata dal trio di Ahmad Jamal, in particolare il trio, appunto, lo so che non lo riconoscete, è lui, rispetto alle foto più recenti. Dicevo, in particolare il trio col chitarrista Ray Crawford e il contrabbassista Israel Crosby, un trio che fu enormemente popolare negli anni 50, è il senso dello spazio. Cioè, avrete notato, per esempio, che in Cole ogni tanto ci sono questi silenzi, tutti si fermano, la chitarra e il pianoforte vanno insieme, il contrabbasso fa delle parti stoppate, c'è un senso del pieno e del vuoto. Ecco, questa idea del pieno e del vuoto, del blocco di strumenti o della nota singola, come a volte faceva Cole, per dare semplicemente una specie di piccola spinta ritmica, visto che manca la batteria, nel trio di Jamal viene esaltato questo aspetto. Addirittura nel brano New Rumba, che stiamo per ascoltare, del 1955, c'è un'intera parte basata su un piccolo riff che vi segnalerò, che si ripete nel pianoforte e nel contrabbasso, mentre la chitarra fa un assolo. È un momento cosiddetto modale, ne parlammo in una delle, forse la prima addirittura, lezione di jazz, per spiegare cos'era questa assenza di movimento armonico e invece di staticità della musica, che consente una maggiore libertà ai solisti. Io direi di ascoltarlo e magari strada facendo vi segnalo delle piccole cose. Vi prego di notare anche come Jamal utilizzi anche un tipo di tecnica che ovvia al problema dell'accumulo di suoni nel registro acuto. Per esempio suonare ad ottave distanti, che vuol dire che io suono una melodia, per esempio, però invece di fare l'accompagnamento, qui nel registro medio, raddoppio la melodia più sotto. In questo modo ho un suono particolare e lascio vuoto tutto il registro medio, consentendo alla chitarra e al contrabbasso, che qui e via via si può spingere anche più sopra, di agire senza entrare in conflitto. Al tempo stesso, chiaramente, esalto la melodia, perché invece di fare così faccio, e quindi l'aspetto melodico è ulteriormente sottolineato. In quel tipo di sonorità si può aggiungere anche la chitarra con ulteriore enfasi della melodia. Sentite gli spazi, il basso. Thank you. Sentite questo accompagnamento della chitarra, come se fosse un bongo. E lui sta sempre sugli acuti. Notevole preziosità cameristica, no? Questo Nyurumba di Ahmad Jamal. Dovete considerare quindi che il trio jazz ha continuato ad avere questo suono fino alla fine degli anni 50. Questo era il suono dominante. Tra l'altro è un suono che richiede per forza una certa cura nell'arrangiamento, perché le dinamiche sono ridotte, no? Cioè io posso anche sforzarmi di suonare forte, ma poi con questo tipo di formazione non posso raggiungere dei volumi molto elevati, quindi devo giocare di finezza e, come vi dicevo, a causa del conflitto fra gli strumenti, come fa magistralmente Jamal, devo lavorare di arrangiamento per definire continuamente i ruoli, e questo mi porta poi a creare delle mescolanze di colore, timbriche, peculiari. Ed è una musica, dovete anche considerare, adatta ad un club o alla radio. In una grande sala da concerto una formazione del genere chiaramente non riusciva ad esaltare tutte le sottigliezze di cui era capace. Però il trio con contrabbasso e batteria, cioè senza la chitarra, cominciava già ad affermarsi parallelamente in modo episodico. Quali sono le tappe di questo trio piano, contrabbasso e batteria? Ripeto, sono episodi discontinui che si affacciano sulla scena fin dalla metà degli anni 40. I primi dischi in trio probabilmente sono quelli del pianista Teddy Wilson, con il contrabbasso e la batteria, dischi nei quali, come quelli che continuerò ad elencare tra breve, il contrabbasso e la batteria hanno un ruolo esclusivamente di sostegno. Cioè non c'è la finezza di arrangiamento di Nat Cole o di Jamal o anche del primo Peterson. Il protagonista assoluto è il pianoforte, il contrabbasso e la batteria sono una sorta di metronomo che spingono con maggiore energia lo strumento. A metà degli anni 40 Errol Garner suona in trio dei dischi splendidi, e dopo di lui il grande Bud Powell, su cui adesso ovviamente ci soffermeremo, incide i primi dischi bebop per trio con contrabbasso e batteria. Di lì a poco lo stesso Thelonious Monk, anche se il trio rimane una formazione meno amata rispetto al quartetto con sassofono, pianoforte, basso e batteria che poi Monk adotterà dagli anni 50. Il grande pianista inglese non vedente George Shearing, che poi si trasferisce negli Stati Uniti e qui popolarizza prima il trio con contrabbasso e batteria e poi un organico ancora più curioso su questi tre strumenti, l'aggiunta di chitarra e vibrafono. Nei primi anni 50 Earl Hines, che era stato un maestro del piano solo, incide e continuerà a incidere fino alla fine con contrabbasso e batteria. E poi succede una cosa interessante, cominciano a apparire dei giovani pianisti, qui siamo intorno alla metà degli anni 50, come per esempio Red Garland, che registrano in trio per un motivo molto preciso, cioè sono pianisti che suonano, per esempio Red Garland era il pianista del quintetto di Miles Davis, con Philly Joe Jones alla batteria e Paul Chambers al contrabbasso. Accade che, lavorando con un musicista così importante, a Red Garland venga offerta la possibilità di fare dei dischi da leader. E lui come li fa? Semplicemente con la ritmica del quintetto di Davis. È come se il trio jazz, nel caso di Garland e più tardi di Wynton Kelly, fosse, come dire, una costola del quintetto, per cui diventa naturale, non c'è la chitarra, cioè il basso e la batteria, invece di avere anche Davis e Coltrane suonano solo piano, basso e batteria. I dischi di Garland e più tardi di Wynton Kelly sono una spinta decisiva verso questo tipo di sonorità del trio con basso e batteria, tant'è vero che alla fine degli anni 50 anche coloro che continuavano a resistere sul format chitarra e contrabbasso si adeguano, licenziano il chitarrista, ahimè forse fanno anche bene, la chitarra è uno strumento profondamente noioso, e no, scherzo ovviamente, sappiamo che un po' è vero, viene licenziato il chitarrista e viene assunto il batterista, e chiaramente questi tri cambiano di suono, come vedremo, e ci si adeguano subito, sia Maj Amal e di lì a poco anche Oscar Peterson. Ora attenzione, nel momento in cui anche Jamal e Peterson, o insieme a Red Garland e Wynton Kelly, si convertono al trio con contrabbasso e batteria, il trio con chitarra e contrabbasso scompare definitivamente dalla scena. Cioè diventa un suono improvvisamente old fashioned, un suono vecchio, un suono che è passato di moda, che è fatalmente legato ad una stagione che è quella del jazz dagli anni 40 alla metà degli anni 50. Noi vedremo ricomparire il trio con chitarra e contrabbasso, per esempio anche in tempi più recenti, solamente quando trovate operazioni di revival, cioè di volontà di resuscitare per esempio il suono di Nat King Cole. Ci sono molti esempi. Come si chiama la pianista, la bionda? Diana Krall, per esempio. Ricordavo più l'avvenenza che il nome. Non a caso, direi. Oggi mi farò un sacco di nemici. Oggi mi faccio... perché qualcuno sa anche perché. Ci arriveremo. No, il caso di Diana Krall è un esempio di revival che tenta di, in alcuni casi ha tentato appunto di resuscitare il suono di Nat King Cole, e chiaramente per farlo si affida al suono con chitarra e contrabbasso. Ora io vorrei entrare finalmente nel meccanismo del trio con pianoforte, contrabbasso e batteria. Come vi dicevo, l'ingresso della batteria al posto della chitarra implica un surplus di energia e implica anche due aspetti. Da un lato, come si sente per esempio nei tri di Red Garland, una maggiore libertà per il pianista, o in quelli di Bud Powell, per esempio. Perché? Perché adesso i ruoli e la distribuzione dei suoni sono molto più chiari. Il pianoforte ha a disposizione tutto lo spazio che vuole. Il contrabbasso si muove sul registro grave e la batteria come strumento a percussione tutt'al più può avere un problema di volume sul pianoforte, ma non di conflitto di suoni come nel caso della chitarra. Questo libera il pianoforte in un certo senso e consente al pianista di muoversi con più libertà e con più disinvoltura sullo strumento. Al tempo stesso questo consente al pianista di preoccuparsi di meno degli arrangiamenti. Cioè, io posso benissimo improvvisare liberamente col basso e la batteria che mi accompagnano senza dovermi preoccupare di coordinare gli interventi della chitarra, del contrabbasso, eventualmente della voce, come nel caso di Cole. Questo tipo di libertà è quello che evidentemente amava Bud Powell, che è stato il padre del trio per contrabbasso e batteria. A lui il contrabbasso e la batteria servivano uno scopo solo: avere un accompagnamento costante, una propulsione continua, sulla quale innestarsi. Powell non lavora di, come posso dirvi, di interazione. Non gli interessa dialogare col batterista o con il bassista. Se voi ascoltate i dischi in piano solo di Bud Powell e quelli in trio, per esempio sui tempi rapidi, Powell suona nella stessa identica maniera. Fa parte di quella schiera di musicisti nei quali vorrei mettere anche, per esempio, che so, Charlie Parker o perfino Sonny Rollins, a cui dedicheremo una lezione nel corso di questo ciclo, che sono, io li chiamo, indifferenti al contesto, come anche Louis Armstrong. Cioè musicisti che, se li metti a suonare con l'ultimo dei pivelli o col più grande degli accompagnatori, suonano sempre nello stesso modo. Cioè non hanno bisogno di interagire, di dialogare con gli altri. Come invece sono altri musicisti invece molto sensibili al contesto, come per esempio Miles Davis o John Coltrane. Ecco, Powell suona per conto suo. E se ci sono basse batterie che gli danno una spinta sotto, tanto meglio. Voglio farvi vedere una esecuzione molto bella da un filmato degli anni 60, quando Powell si trovava in Europa in uno degli ultimi momenti felici di una vita profondamente tormentata e difficile. Siamo al Jet Suisse Montmartre di Copenaghen, con una ritmica, vedrete, ci sono i nomi, danese, tra cui Niels Henning Ørsted Pedersen al contrabbasso, che all'epoca avrà avuto 17 anni, era, come sapete, una figura pazzesca, un vero virtuoso dello strumento. Loro suonano, c'è un montaggio molto curioso, molto anni 60, dentro questo club danese, e Bud Powell suona meravigliosamente Anthropology, un pezzo di Dizzy Gillespie e Charlie Parker, in questo puro stile bop. Sentirete che lui fa il tema suonando appunto in ottave, e poi sentirete che lui suona prevalentemente, questa è una caratteristica nuova del trio jazz, con la mano destra, muovendosi liberamente su e giù per la tastiera, e la mano sinistra che fa dei piccoli accompagnamenti. Questa possibilità di avere la spinta di basso e batteria sotto libera, come vi dicevo, il movimento delle mani del pianista, che in un'ottica bop pensa a una specie di flusso libero, come se fosse uno strumento a fiato, mentre la sinistra fa dei piccoli accompagnamenti. Thank you. Fantastico. L'approccio di Powell ha creato una serie di soluzioni formali che sono ancora oggi in vigore. La prima, in un trio jazz, il pianista, con basso e batteria intendo ovviamente, non più con chitarra e contrabbasso, il pianista tende a suonare prevalentemente con la mano destra. E avete visto, la sinistra fa poco, fa l'accompagnamento. Questa è stata la salvezza di un sacco di finti pianisti. Perché si suona il pianoforte con tutte e due le mani. Siccome siamo per la maggior parte destrimani, un pianista nasconde le deficienze della mano sinistra facendo il bopper, che suona tanto, tanto con la mano destra e niente, niente con la mano sinistra. Io scherzo un po', ma un po' è anche vero, attenzione. Il secondo aspetto è che in questo tipo di approccio l'improvvisazione è tutto. Cioè, non ci sono, avete visto, non ci sono arrangiamenti, non c'è niente di preparato. Si suona, l'interesse della musica sta nel flusso di idee del solista principale che il pianista. In questo flusso di idee, terzo aspetto, anche gli altri due musicisti possono avere un qualche spazio. In particolare, il batterista avete visto, in questo caso può fare degli scambi col pianista, 4 battute a ciascuno, 8 battute a ciascuno. Se il leader non è particolarmente tirannico, gli può concedere anche un paio di assoli durante il concerto. Se è tirannico, è matematico, l'assolo di batteria arriverà sull'ultimo pezzo, dove finalmente al batterista è concesso di sfogarsi. L'assolo di contrabbasso precede sempre quello di batteria. In questo format c'è un lungo assolo di pianoforte, poi tocca al bassista a fare un assolo, soprattutto se il tempo è medio o lento, perché chiaramente su un tempo rapido come questo, sì, Pedersen sarebbe stato capace, diciamo, ma mediamente diventa un po' faticoso e difficoltoso per un bassista, e poi c'è eventualmente lo scambio con la batteria o, in casi eccezionali, l'assolo di batteria. Questo format è ancora oggi, in vigore. E queste soluzioni formali sono ancora oggi prevalenti, devo dire anche purtroppo, laddove non c'è una più attenta ricerca musicale e c'è invece un abbandonarsi, diciamo così, a formule ormai consolidate, dopo 50 anni è ancora l'approccio prevalente al trio jazz. Questo tipo di approccio non vale però per quei musicisti che sono cresciuti, come per esempio Oscar Peterson, che sono cresciuti nel trio con chitarra e contrabbasso, dove c'è bisogno di una certa organizzazione formale. In particolare Peterson ha diretto negli anni 60 e poi con musicisti diversi negli anni 70 dei tri, in particolare il trio immortale con Ray Brown al contrabbasso e Ed Thigpen alla batteria, che io personalmente considero uno dei punti più alti raggiunti dalla storia del piano trio. Perché? Perché c'è dentro la fluidità improvvisativa di Bud Powell, ma c'è anche la capacità organizzativa del Peterson, che lavorava nel trio con chitarra e contrabbasso, per capirci alla Nat King Cole. Non solo, ma il team, la squadra con Ray Brown e Thigpen, ha una elasticità ritmica, uno swing, che ancora oggi sono assolutamente ineguagliati. Io ve lo vorrei prima far sentire per poi poter riflettere sul senso quasi direi freudiano del piacere corporeo, fisico di questa elasticità che si legge anche sul viso dei musicisti. In particolare non saprei se lodare più Ray Brown o Ed Thigpen. Thigpen è un musicista che sta in maniera metronomica sul tempo e affida tutto prevalentemente al piatto. Ray Brown è uno dei più grandi contrabbassisti della storia e ha questo fraseggio sul 4 che è estremamente elastico e rimbalzante, ma al tempo stesso ha un misto di rigidità e di morbidezza, perché voi sentite le singole note, ma non è un po' staccato e un po' legato, è una cosa di mezzo, se chi l'ha ascoltato sa cosa intendo, adesso lo ascolteremo insieme. Tutto questo è però organizzato da Peterson in un'amalgama di suono che è giocato soprattutto sull'arrangiamento, cioè su parti preparate, anche laddove sembra che stiano improvvisando, in realtà quando li sentite andare insieme a fare degli stacchetti o cose del genere, c'è questa preparazione. Vi faccio vedere un filmato, oggi mi affido molto ai filmati perché così possiamo vedere anche le mani dei pianisti e apprezzare meglio anche per attraverso i giochi di sguardi, la disposizione dei musicisti. Avete visto per esempio in questo caso Powell è di qua sul pianoforte, il contrabbasso è in mezzo, la batteria è di là e anche... Certo, si possono guardare, ma Powell ama stare per conto suo. Curiosamente, invece, vedrete che il trio di Peterson ha il pianoforte qui, il contrabbasso sulla sua destra e la batteria lì. Non hanno bisogno quasi di guardarsi. C'è anche un altro motivo. È che paradossalmente, in questo trio così integrato, visivamente si deve capire chi è il leader. E il leader è quello che dà praticamente le spalle al gruppo. Cioè il pianoforte è isolato rispetto agli altri due, visivamente, musicalmente invece è perfettamente integrato. Possiamo alzare un po' il volume, grazie. Produzione più classica. Contrabbasso con l'arco. La dinamica. Cambia la tonalità. Arrangiamento. Prego di ascoltare il contrabbasso, la sua elasticità. Iniziamo in questo tempo in due. Pieno di citazioni. non so, se qualcuno di voi fa lo psicanalista e vorreste spiegare cos'è la libido, io farei vedere questo filmato. È chiaro che c'è la lezione di Ahmad Jamal, per esempio, anche proprio del trio con il pianoforte, con il contrabbasso e la chitarra, nell'uso dello spazio, però in più la batteria in questo caso consente ai tre di giocare per esempio sulle dinamiche, il piano, il forte, il movimento del contrabbasso sugli acuti, sul grave. D'accordo, Oscar Peterson è stato fatto oggetto di molte critiche anche fondate, per esempio per questo suo virtuosismo a volte un po' vuoto di suonare mille note precise e veloci senza una grande profondità emotiva, però il trio di Peterson va preso come un organismo intero, compiuto, chiuso, sì, forse chiuso perché è una musica estremamente calcolata, organizzata, però dentro c'è questo piacere, questa libertà, questo senso dello swing unito all'attenzione per i dettagli che rimane a tutt'oggi ineguagliato. Tutto questo accade nei primi anni 60 e tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60 c'è una vera e propria rivoluzione dentro il trio. È vero, si afferma Oscar Peterson con il suo trio, si afferma il trio di Ahmad Jamal, che non ascolteremo qui nella versione con contrabbasso e batteria, che comunque conserva quell'idea di spazialità e di spaziosità nella sua organizzazione musicale, ma soprattutto si afferma con sempre maggiore attenzione, interesse, un giovane pianista bianco di nome Bill Evans che tra la fine degli anni 50 tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60 imprime una vera e propria rivoluzione, una svolta al trio nel momento in cui il trio con pianoforte, contrabbasso e batteria si va consolidando. E qual è questa svolta? Qual è questa rivoluzione che porta Bill Evans? Beh, intanto Bill Evans ha lavorato sempre esclusivamente in trio per tutta la vita, prima di raccontare. Questi ho messo così in lista i principali trii che Evans ha avuto nel corso della sua carriera. Storicamente il più importante rimane il primo, che è stato anche quello di minore durata, perché come sapete poi un incidente d'auto si portò via Scott LaFaro dopo neanche un anno che il trio suonava insieme. Evans precipitò in una specie di depressione, decise di smettere di suonare, fu una cosa veramente molto dura. Poi però in particolare a metà degli anni 60 incontra il contrabbassista portoricano Eddie Gomez che per un decennio rimarrà il suo partner privilegiato mentre alcuni batteristi cambiano, fino ad aver incontrato poi negli ultimi anni, alla fine degli anni 70, il bassista Mark Johnson. Perché sto dando tanta importanza al bassista? Perché Evans, quando incontrò Scott LaFaro, incontrò un musicista che lo spinse a riconsiderare il trio in un modo completamente diverso. Evans aveva già inciso dei dischi in trio di tipo tradizionale, diciamo così, come si stava andando consolidando alla fine degli anni 50. Ma Scott LaFaro chi era? Scott LaFaro era un bassista giovanissimo, poco più che ventenne, che aveva un virtuosismo sullo strumento fuori dell'ordinario, incomparabile, una velocità, una capacità di muoversi sullo strumento che nessun bassista aveva avuto fino a quel momento. In più aveva un'audacia di concezione che rompeva con il ruolo tradizionale dello strumento. Qual è questa audacia? Che il contrabbasso non accompagna, diventa un solista, ma un solista insieme al pianoforte, non quando deve fare l'assolo. Cioè il contrabbasso si sottrae al ruolo di accompagnatore, o meglio, non è che si sottrae, non sta sempre lì, ma può decidere, soprattutto andando sul registro acuto, di diventare co-solista del pianoforte. Di fronte alla innovazione di LaFaro, il pianoforte si trova a dover dialogare con il contrabbasso, cioè con uno strumento che invece tradizionalmente, pensate al trio di Bud Powell, se ne stava lì a fare l'accompagnamento. Questo crea un sacco di nuove possibilità, perché se il contrabbasso comincia a salire qui, laddove il pianoforte suona il registro medio, non solo il pianoforte tende a muoversi di più verso l'acuto, ma deve organizzare i suoni del registro medio in un altro modo. Evans, per esempio, si inventa degli accordi che non hanno la cosiddetta fondamentale, cioè Questa è la fondamentale, la nota più bassa. Ok? Ora, di solito, se c'ho un contrabbasso, io non suono la fondamentale, questo. Perché la suona il contrabbasso. Quindi io faccio questo e il contrabbasso farà questo. Ma se io faccio questo e il contrabbasso non fa la fondamentale, perché Scott la Faro che si muove inerpicandosi su per lo strumento e nel registro da tastiera fino andando su, questo suono qui diventa molto più ambiguo, perché potrebbe essere questo, potrebbe essere questo, potrebbe essere questo, potrebbe essere questo, questo, potrebbe essere tanti accordi diversi. Non c'è la fondamentale che gli dà il carattere definito. Questo rende tutto più aereo, più leggero, al tempo stesso più ambiguo, più aperto. Questa apertura è poi confermata dal fatto che il basso non sta lì a fare l'ancoraggio ritmico e armonico. E la batteria cosa fa in tutto questo? Quindi si crea un asse privilegiato contrabbasso pianoforte. La batteria ha il delicatissimo ruolo di tenere il tempo, visto che il pianoforte e il contrabbasso fanno quello che vogliono, di tenere il tempo, al tempo stesso di creare motion con i piatti, in particolare crea una specie di alone timbrico che coagula il pianoforte, il contrabbasso e la batteria stessa in un unico, come dire, suono. È come se fosse un collante. E lo fa, tra l'altro, suonando dei ritmi che non sono metronomici, sono il contrario di Ed Thigpen. Ed Thigpen è un metronomo formidabile. Motion è uno che danza, oscilla, e questo crea un ulteriore senso di apertura. Questa rivoluzione del trio, asse, pianoforte, contrabbasso, e il batterista che danza intorno e coagula, avviene tra il 1960 e il 1961 e trova il culmine nelle registrazioni live che abbiamo al Village Vanguard di New York. Questa è una delle rare foto di quella occasione, che sono, come dire, fanno veramente parte dell'empirio del trio pianoforte, contrabbasso e batteria. Noi ascoltiamo, da questi brani in genere sono molto lunghi, quindi ne ho scelto uno rappresentativo ma un po' più breve, che è Glorious Step, una composizione del bassista Scott La Faro, nella quale si apprezza molto bene tutto questo discorso, il colore dei piatti e soprattutto il contrabbasso che, uscendo dal registro grave, dialoga col pianoforte. Siamo proprio al Village Vanguard, è lì. Giù, sale, thank you. agilità incredibile, facilità. Pensate che quella sera c'era meno gente di quanto ce ne sia oggi in sala ad assistere a questo concerto memorabile. Avete sentito? C'è anche un suono nuovo, perché il fatto che Evans non suoni gli accordi come li suona Oscar Peterson, o così, ma li suoni con queste sonorità più strette, per esempio. Dà un riverbero sonoro all'intero gruppo che fa cambiare il suono all'intero gruppo. E il fatto che, dovete sapere che in musica, quando si suona una nota, dentro questa nota si riverberano in realtà altri suoni che non udiamo, ma che ci sono e che danno il colore alla nota, si chiamano armonici. Ora, se io suono la nota qui sotto, si sprigionano gli armonici, non li sentiamo, ma su registri più acuti e influenzano quello che si suona sopra. Ma se io suono questa nota qui, gli armonici che vengono fuori, cioè i suoni più acuti che non udiamo ma che ci sono nello spettro sonoro, cioè che non udiamo distintamente uno per uno, ma amalgamati li sentiamo, creano un altro tipo di colore. Questo è un colore, questo è un colore. Allora, se il contrabbasso suona qui, il trio c'ha un suono, come fa per esempio Ray Brown quando accompagna. Se il contrabbasso suona qui, come fa Scott LaFaro quando va su, il colore cambia. Non ce ne rendiamo conto, ma il colore, il suono del gruppo cambia. LaFaro e Evans erano anche legati, voglio aggiungere una cosa, scusate, che ovviamente avete sentito che Evans aveva poi un'intensità poetica che è così asciutta, così profonda, che contrasta con il virtuosismo esuberante di LaFaro. Sono come due elementi che si bilanciano, da un lato questa introspezione, dall'altro questa esuberanza, e in mezzo Motion che ondeggia letteralmente. I due erano anche legati da aspetti meno, come dire, meno piacevoli, visto che erano entrambi eroinomani, ma la tragedia fu la morte improvvisa per un incidente d'auto di Scott Lafaro, che si andò a schiantare contro un albero in macchina e morì alla tenera età di 26 anni, dopo aver fatto in tempo a sconvolgere, rivoluzionare il ruolo del contrabbasso nella storia della musica. Evans trovò un sacco di difficoltà non solo a ricominciare a suonare dopo la morte di un partner così importante, un partner musicale così importante, un'amicizia così profonda, finché non incontra il portoricano Eddie Gomez. Eddie Gomez diventa il nuovo Scott Lafaro, è un musicista che suona, Evans va in cerca di un bassista che si senta libero, che si muova, virtuoso, che non sia nel ruolo dell'accompagnatore. E questa partnership dura più di un decennio, e è un peccato non farvi vedere tra i tanti filmati che ci sono, almeno uno con Eddie Gomez, e Marty Morrell, che è stato un magnifico batterista che ha fatto parte del trio negli anni 60 fino alla prima metà degli anni 70, vi faccio sentire How My Heart Sings, faccio vedere How My Heart Sings. Il gruppo suona questa composizione di Earl Zinders, un amico di Bill Evans, e che alterna, ve lo farò notare, il tre quarti e il quattro quarti, il tempo di valzer e il tempo swing regolare. È una cosa che non si fa tanto spesso nel jazz. Evans concepiva il trio, lo vedremo meglio anche più avanti, come un organismo nel quale l'arrangiamento è molto importante. Qui per esempio da un punto di vista ritmico, continuamente 3 e 4, 3 e 4, ve lo farò notare all'inizio, poi lo seguirete voi. Nel filmato si apprezza la libertà di movimento e l'incisività dello stile di Eddie Gomez. Siamo negli anni 70. Thank you. notate che anche nel finale c'è un arrangiamento con questi accordi che sono preparati prima. Evans è molto accurato in questa organizzazione del trio. Questa organizzazione del trio di Evans è talmente accurata che, per esempio, lui adotta tutta una serie di strategie che solo occasionalmente venivano utilizzate prima. L'abbiamo sentita una in Oscar Peterson prima. In particolare, la modulazione, cosa vuol dire? Quando si cambia di tonalità, faccio un esempio. Io posso fare una melodia, ok? Questa è una tonalità, poi posso cambiare tonalità e la faccio qui, ok? Ancora posso cambiare tonalità e farla qui. La melodia rimane la stessa, mi sposto in diverse tonalità. Questa è quella che si chiama tecnicamente modulazione. Per esempio, Oscar Peterson suona un Grindolphy Street all'inizio in una tonalità, quando la fa da sola, più classicheggiante, e poi, quando entra il trio, la fa in un'altra tonalità. Serve per cambiare colore, per dare un'atmosfera diversa. Il passaggio da una tonalità all'altra crea delle sottili tensioni di cui il pubblico non specializzato non si rende conto, ma queste tensioni rendono viva la musica, perché la musica si sposta da un'area all'altra senza che ce ne rendiamo conto. Evans è stato un maestro di questo trasporto, cioè di prendere un tema e di farlo in tonalità differenti. Ha preso questa tecnica studiando Franz Schubert, che è stato forse il capostipite, il maestro assoluto di questo tipo di tecnica, nelle sue sinfonie, nelle sonate, nei quartetti. In particolare c'è un pezzo che voglio farvi sentire come Evans concepisca il trio davvero come un organismo compositivo complesso, nel quale però c'è anche spazio per l'improvvisazione. C'è il tema di un famoso film dei primi anni 70 che si chiamava MASH, ve lo ricordate? Il primo film importante di Robert Altman, Mobile Medical Army Surgery era l'acronimo, era ambientato nella guerra di Corea, raccontava, se ve lo ricorderete, di questo gruppo, di questo ospedale da campo militare tra tragedia e commedia, un film profondamente antimilitarista. Il tema principale del film era stato scritto da Johnny Mandel e ha a che fare con una scena di un suicidio, o meglio di un finto suicidio. Adesso non sto a raccontare tutti i dettagli, ma Evans conosceva bene che cosa vuol dire il suicidio, perché la sua compagna, Ellen, si era suicidata, anche lei eroinomane, si era suicidata alcuni anni prima della registrazione di questo disco. Il disco di cui sto parlando è un disco con Elliot Zygmunt alla batteria e Eddie Gomez al basso, che si chiama You Must Believe in Spring. È una grande riflessione sulla morte, sostanzialmente, questo film perché il titolo del disco viene da una canzone di Michel Legrand. Questo disco, una specie di concept album intorno alla morte, e l'ultimo brano è il tema di MASH, il cui sottotitolo è Suicide is Painless, cioè il suicidio è indolore, una cosa che non mi tocca, non mi fa male. Come organizza questo tema bellissimo, molto noto oggi anche di Johnny Mandel? Voglio farvi vedere, scendo un attimo nel dettaglio, perché permettetemi un dettaglio tecnico, ma è importante per capire la ricchezza del linguaggio del trio di Bill Evans. C'è il tema che viene suonato all'inizio, vediamo se funziona il mio famoso oggetto, sì, perfetto. Vedete, c'è il tema che è in sol maggiore, qui. Ok, questo è il sol. Questo è l'attacco del tema, no? Forse ve lo ricorderete. Era anche il tema del telefilm da cui poi fu tratto il film. Dopodiché, dopo aver suonato il tema, il trio suona un interludio sul quale, dopo aver fatto il tema, Evans improvvisa. A metà dell'interludio cambiano tonalità. Lo sentirete, è proprio molto chiaro. Così, quando rifanno il tema, la tonalità è cambiata e lo fanno così. Sono andati da sol a mi bemolle, rifanno l'interludio su cui improvvisa Evans, cambiano tonalità, vanno a si maggiore e fanno il tema in si maggiore. Dopodiché fanno l'interludio, e ritornano a casa a Sol. In tre mosse si ritrovano alla stessa nota. Sono le tonalità che usa anche John Coltrane in Jazz Steps, ma questo ci porterebbe molto lontano e sento già qualcuno che ha i sudori freddi di fronte a questa cosa un po' più tecnica. L'importante è capire questo, che c'è un'area che è questa. C'è un'area che è questa. C'è un'area che è questa. E c'è un'area, tornando a casa, che è questa solo. Cosa succede? Questi puntini, doppia stanghetta e puntini, vuol dire in musica che la cosa si ripete. Arrivati qui, si torna indietro e lo si fa uguale due volte, quindi. Che succede? Che nel trio Evans, in questo pezzo, improvvisa non sul tema, ma solo nell'interludio. Improvvisa qui, improvvisa qui, improvvisa qui. Nell'interludio cambiano tonalità e lui rifà il tema ogni volta in una tonalità diversa, quindi ogni volta in un colore diverso, il tutto facendosi due giri. Quindi non c'è tema, assoli, tema, no? C'è tema, un pezzetto di assolo su un'altra struttura interludio, tema, un altro pezzetto di assolo, tema, un altro pezzetto di assolo, cambiando continuamente tonalità. Si torna indietro e si rifà due volte. È bassissimo. Modulazione, sentitela. Thank you. Sarebbe molto da dire ancora su questo pezzo, magari l'anno prossimo gli dedichiamo un viaggio nel capolavoro, perché questa idea di circolarità ha molto a che fare col significato intrinseco della canzone. Dopo Bill Evans il trio per pianoforte, contrabbasso e batteria non è più lo stesso. Si ridefiniscono queste geometrie, saltano le regole, quindi ognuno si sente libero di poter ricombinare i ruoli degli strumenti come vuole. Ho fatto un rapido elenco dei principali trii che compaiono dagli anni 60 in poi, quello del giovane Chick Corea con Miroslav Vitus e Roy Haynes, in ordine grossomodo cronologico, il Modern Art Trio, di cui parleremo dopo, il trio di Jarrett con Gary Peacock e Jack DeJohnette, prima avrei dovuto dire quello con Charlie Eden e Paul Motion nei primi anni 70, poi però quello più celebre degli standard dagli anni 80 ancora fino ad oggi. Ovviamente il trio di Brad Mehldau, prima con Larry Grenadier e Jorge Rossi e poi con Jeff Ballard alla batteria. Il trio dello svedese Esbjörn Svensson, purtroppo anche lui scomparso prematuramente. E almeno tra quelli contemporanei il trio di Vijay Iyer con Stephen Crump e Marcus Gilmour. Ecco, se dovessi fare una lista dei principali trii di jazz contemporaneo dagli anni 60 ad oggi, la farei con questi nomi. Noi adesso ci dedichiamo ad alcuni di questi, non a tutti, e partirei in particolare anche cronologicamente dal formidabile trio che ha inciso un disco che vi obbligo a comprare, che Now He Sings, Now He Sobs. È un obbligo, come dire, che non ha, però è una minaccia, così. E, fatelo, regalatelo sotto l'albero di Natale, il momento buono. È uno dei più straordinari dischi in trio, ve lo dice uno che non è che stravede per Chick Corea, ma in quegli anni, parliamo del 69-70, era veramente in una forma stratosferica, e questo disco è stratosferico. Qual è la forza del trio di Corea con Miroslav Vitus e Roy Haynes? E che, forte dell'esperienza di Bill Evans, qui i musicisti si muovono con grande libertà, con una cosa in più, che l'asse privilegiato di Corea è con la batteria. Anche se Miroslav Vitus, il cecoslovacco, è uno di quei bassisti ipervirtuosi come Scott Lafaro o Eddie Gomez, cioè viene da quella scuola lì, e si muove quindi tanto, in realtà Corea, che tra l'altro non so se lo sapete, è anche un buon batterista, ragiona molto in termini ritmici, quindi il suo partner ideale è il geniale Roy Haynes, che tra l'altro ha più di 90 anni ma ancora in giro a suonare, e Roy Haynes che usa questo ritmo iperframmentato, super polverizzato, quindi questo ritmo così polverizzato crea una specie di fittissima interazione con la mano sinistra e con la mano destra di Chick Corea, che è qualcosa di veramente ritmicamente straordinario. Windows è uno dei pochi brani brevi di questo disco, quindi ho scelto questo. Batteria, quante cose diverse fa. Ovviamente il basso si muove, se fosse scomparso. La batteria com'è? Thank you. Questo effetto di polverizzazione della musica dovuto al fatto che i ruoli si rimescolano continuamente tocca, secondo me, il vertice assoluto in quello che stiamo per ascoltare, però ci metto un tocco di gioco in quello che stiamo per ascoltare perché non vi dico che cos'è, lo ascoltiamo prima per non condizionare le vostre aspettative. Vi dico solo che la musica è completamente improvvisata ed è basata su piccole cellule di 3-4 note condivise tra pianoforte e il contrabbasso. È una cosa che non si sente, diciamo che dentro questa totale libertà ci sono in realtà delle regole basate su piccoli grappoli di note. Siamo nel 1970. Cellula di base. Il basso si muove liberamente. La batteria smette di suonare. Basso la parte. Thank you. Questo gruppo si spinge in un territorio che nessun trio di quegli anni, né quello di Corea, né quello di Jarrett, tantomeno quello di Bilema, cioè questo territorio dell'informale, però con una struttura sotto, con queste atmosfere misteriose, evocative, spigolose, umbratili, beh, nessun gruppo si era spinto così avanti e rimane ancora oggi un esperimento di portata eccezionale. Il problema è che non sono americani, ma sono italiani. Sono Franco D'Andrea, Bruno Tommaso e Franco Tonani con il Modern Art Trio, un esperimento durato pochi mesi, è rimasto documentato solo da un disco che per molto tempo è stato introvabile e che una casa discografica, la Rear World, ha poi ristampato anche con il contributo del sottoscritto e dell'associazione Sidma. Il brano si intitolava Echi e ci dà l'idea di come a volte abbiamo un'idea sbagliata della storia del jazz. Siamo lì a parlare di Jarrett, di Corea, di Bill Evans, ma nel 1970 il Modern Art Trio stava più avanti di chiunque altro. E non dico altro. Certamente il trio più popolare, qui vedo già gente in ginocchio, in preghiera, è il trio di Keith Jarrett con Gary Peacock e Jack DeJohnette, fondato negli anni '80, come sapete ancora attivo, anche se ormai direi, diciamocelo francamente, che il culmine che il trio ha toccato soprattutto alla fine degli anni '80 è ampiamente passato. Vorrei spogliarmi il trio di Jarrett dall'aura messianica che abilmente gli è stata costruita intorno, in particolare intorno al pianista, e vorrei ricordare, e qui comincio a farmi gli amici, che il trio di Jarrett rappresenta negli anni '80 da un lato un vertice assoluto nella elaborazione del trio. Perché un vertice? Perché sono tre musicisti eccezionali. Il concetto di trio che ne ha la base è molto simile a quello di Corea, cioè ha un asse privilegiato, batteria, pianoforte, con il contrabbasso che fa da battitore libero, cioè il contrario di quello di Evans, no? Che invece aveva l'asse privilegiato fra il pianoforte e il contrabbasso. Con Corea, in particolare con Jarrett, si sente che il dialogo avviene soprattutto a livello di pianoforte e batteria e il contrabbasso in mezzo amalgama. D'altra parte c'è un altro aspetto di questo vertice, che la bellezza sonora, in particolare del pianismo di Jarrett, è soprattutto negli anni '80 veramente incomparabile. La luminosità del timbro, la bellezza del fraseggio, il legato, l'intensità del tocco sono veramente cose che non si discutono. L'aspetto, secondo me, che poi alla lunga si è rivelato più negativo è la totale mancanza di progettualità, un'idea molto neoclassica di jazz che ritorna al concetto, se vogliamo, powelliano, alla Bud Powell di trio, cioè io faccio il tema, infilo 20 minuti di assoli, magari uno più bello dell'altro, rifaccio il tema nel rigorosissimo ordine, assolo di piano, assolo di contrabbasso, assolo di batteria, quando c'è, e finisce il tema e finisce il pezzo. Questa formula, che se hai un improvvisatore eccezionale funziona, e funziona con Bud Powell, e funziona con Keith Jarrett, però alla lunga non porta da nessuna parte, cioè logora, e infatti il trio dopo 30 anni si è logorato. L'aspetto a mio avviso più discutibile di questo trio è che ignora, la grande lezione del trio di Bill Evans, che è quella dell'organizzazione della musica. Cioè ci limitiamo a fare assoli strepitosi, perfetto, ma poi quando la serata magari non gira, l'assolo non è strepitoso, la musica cede. Laddove invece c'è maggiore organizzazione, anche se la serata non fa, il pezzo sta in piedi. Ma poi soprattutto è una questione di apertura della musica. Il trio di Jarrett è una perla, un organismo straordinario, ma completamente chiuso, che non offre sbocchi, sviluppi, cioè tu all'inizio della serata sai già come andrà a finire tutto il resto. Se suonano bene sarà indimenticabile, se suonano male, come a volte capita purtroppo, soprattutto negli ultimi tempi, è una noia mortale. Il clou, a mio avviso, di questo trio è il famoso concerto giapponese, non vorrei andare errato, del 1989, da cui estraiamo Someday my prince will come. Notate la disposizione più paritaria anche degli strumenti sul palco rispetto a, che so, a un Oscar Peterson, più simile a quella di Bill Evans. L'assoluto contrabbasso, a volte accade nei trii, proprio per spezzare la regolarità della serie degli assoli, il contrabbasso fa il primo assolo. Thank you. Ho sbagliato il titolo, vi chiedo scusa, era When You Wish Upon a Star, ovviamente, non Someday, ma Prince Will Come. Questa, chiamiamola così, splendente restaurazione neoclassica del trio di Jarrett ha lasciato un segno profondo sulla scena contemporanea. Vorrei offrirvi ancora due esempi per concludere, brevi. Il primo è quello di un altro musicista estremamente popolare, che è Brad Mehldau, emerso negli anni 90, la cui innovazione all'interno del trio non sta tanto nel ruolo degli strumenti, che non si differenzia molto da quello del trio di Jarrett o di Chick Corea. Cioè ormai l'assestamento neoclassico è quello, tema, soli, tema, con ruoli, diciamo così, moderatamente mobili, ognuno però sta al posto suo senza rompere troppo le scatole all'altro. Le innovazioni di Mehldau piuttosto stanno altrove, stanno per esempio nella scelta del repertorio, come sapete, che attinge alla canzone contemporanea anche di alto profilo, come quella dei Radiohead, di cui ascolteremo adesso un brano, o anche quella storica, popolare, inglese o americana, come la musica dei Beatles o John Lennon e così via. E l'altra è in questo gioco tra mano destra e mano sinistra, che si fa più contrappuntistico e che in effetti è una novità che nel trio pianistico non era mai stata sviluppata e che apre nuovi spazi, diciamo così, al suono dentro il trio, perché nel momento in cui la mano sinistra va a fare dei contrappunti invece che i soliti accordi, secondo la vecchia tradizione di Bud Powell, le voci diventano tre, la sinistra, la destra, il contrabbasso, e si crea un respiro interno molto più interessante. A mio modesto avviso, io già sento caricare le pistole in sala, a mio modesto avviso la carriera di Mehldau, oltre ad essere un pianista estremamente sopravvalutato, perché per esempio nell'ambito del trio in Italia abbiamo Stefano Battaglia, che muovendosi dalle mosse del primo Jarrett anni 70 ha fatto delle cose molto molto più originali e interessanti. Il trio di Mehldau è anch'esso, tutto sommato, direi un'esperienza conclusa. Chi ha sentito gli ultimi concerti si renderà conto che a me sembra che abbia ancora ben poco da dire, e soprattutto c'è qualcosa che si sente anche in Jarrett e che a me piace contrapporre per esempio alla libido di Oscar Peterson, cioè una sorta di trattenersi, di trattenere l'emozione, una specie di volontà, Freud direbbe anale, di stare lì a concentrarsi, a trattenersi, alla ricerca di una bellezza di suono, che c'è ovviamente, fondamentale, ma sembra che ci sia una specie di piacere repressivo in tutto questo. Lo so che sto diventando antipatico e ho perso metà del mio pubblico, però a mio avviso il fascino di questa musica sta anche in questo. Il filmato che vi faccio vedere è un po' di scarsa qualità, ma chiedo scusa, siamo un po' tardi, ma ancora un ultimo esempio da farvi vedere. Questo è il trio con Jorge Rossi, prima che arrivasse Jeff Ballard alla batteria, che ha portato in effetti una ventata di vitalità più sostanziosa dentro il trio di Mehldau. Questa è Exit Music for a Film dei Radiohead. La disposizione è sempre ormai quella standard, pianoforte il contrabbasso al centro. Thank you. destra contrappunta. Poi ovviamente, a parte che era Jeff Ballard, chiedo scusa, e non Jorge Rossi alla batteria, io poi così esagero anche per amore di polemica, ma è chiaro che siamo di fronte a un pianista maiuscolo, e in particolare c'è una cosa nel trio di Meldau che per esempio non si trova nel trio di Jarrett, l'attenzione alla dinamica. Avete sentito come il brano cresce con molta attenzione, poi c'è un momento più avanti in cui decresce, cioè c'è un'attenzione millimetrica in particolare ai giochi di dinamica che sono studiatissimi dal trio di Meldau e realizzati al meglio, si sente soprattutto in teatro con una buona amplificazione e si possono apprezzare al meglio. L'ultimissimo ascolto che voglio offrirvi, magari non lo ascoltiamo per intero perché è un po' tardi, è quello del pianista che secondo me in questo momento il pianista più interessante sulla scena internazionale è colui che ha veramente una nuova visione del trio, che esce, diciamo così, dalle strettoie del neoclassicismo post-giarrettiano o alla Meldau e offre una visione nuova, perché ritorna, come dire, e questo lo fa in parte anche Meldau, ritornano sia Meldau sia Vijay Iyer a riconsiderare quel vecchio problema del pianoforte fin dal tempo del trio con la chitarra, cioè come organizzare i suoni nello spazio sonoro a disposizione. Per esempio, Iyer trova un'altra soluzione, va a esplorare, lo vedrete nel filmato, il registro grave, cioè lo spazio più estremo del registro grave, che finora in tutti i filmati che abbiamo visto è rimasto, tutto sommato, appannaggio esclusivo del contrabbasso. Invece Iyer fa un'operazione di rovesciamento, cioè attribuisce, in virtù anche di una splendida mano sinistra, di un suono meraviglioso, il registro grave alla sinistra e fa in modo che il contrabbasso si spinga su questo vuoto lasciato dalla mano sinistra e la mano destra si muove con note singole e accordi. In tutto questo però poi ci sono dei momenti in cui tutti si compattano nel registro medio, compresi per esempio i piatti di Marcus Gilmore, forse memore della lezione del Paul Motion con il trio di Bill Evans, in cui la batteria fa da collante timbrico e si creano degli effetti di dinamica e di colore veramente nuovi, proprio perché il ruolo del contrabbasso e della mano sinistra del pianoforte sono riconsiderati in maniera profonda. Vi faccio vedere un filmato recente del trio. Il materiale su cui lavorano è un materiale ciclico, un po' come il pezzo di D'Andrea. Cellule di note che consentono al gruppo di aprirsi e chiudersi a piacimento. Alcuni ritmi vengono dalla tradizione popolare e colta indiana, di Jayaya di origine indiana. Profondo discorso di elaborazione ritmica. Contrabbasso non solo l'accompagnamento, ma proprio queste cellule melodiche. Poi il ritmo cambia. Io sono il registro grave. Tecnico, se può sfumare, grazie alla musica, è un po' tardi, ecco, grazie mille. Quello che voglio dirvi è questo, che il trio per pianoforte è un organismo ancora ricco di potenzialità. Io adesso ho anche giocato polemizzando un po' con la svolta neoclassica di Jarrett e di Meldau, ma sono proprio anche queste possibilità, suonare come il trio di Jarrett, suonare come quello di Meldau, le novità di Vijay Iyer, quelle del trio di Stefano Battaglia. La lezione, se ci pensate, ancora viva del Modern Art Trio di Franco D'Andrea, non abbiamo parlato di Paul Bley, che è molto vicino per esempio a quel tipo di sensibilità, sono il segno che questo tipo di organismo ha ancora molto da dire. E tutto sta, ancora una volta, vorrei sottolinearlo, il segreto per apprezzare poi questo tipo di formazioni, tutto sta nel cogliere il fatto che non è che c'è il divo pianista che suona, l'obiettivo dei migliori trii alla fine è sempre quello di un colore, di un suono. Lo sapete, nel jazz la cosa più importante è il suono, il bassista c'è il suo suono, il batterista ha il suo suono, il pianista ha il suo suono. Ma quello che rende speciale il trio jazz dei grandi maestri che abbiamo fin qui colto è proprio il sound, e questo sound bisogna un po' aguzzare l'orecchio, è fatto di quella filigrana di armonici, di quei suoni che si sentono e non si sentono, che combinati insieme, quello delle posizioni del pianoforte, i vuoti per esempio lasciati da Vijay Iyer, il contrabbasso che c'è o non c'è, la batteria che decide di dare gran colpi sui piatti oppure piccoli tocchi sul rullante, questa mescolanza crea un colore. Questo colore poi deve diventare discorso come forma e sviluppo musicale. Grazie. Grazie.